Isvara. State ascoltando Radio Isvara. Radio Isvara vi invita all'ascolto di Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. Benvenuti a Isvara Video. Questo è uno dei tanti progetti che facciamo con amore e con passione. Lo facciamo per il piacere di dare la coscienza di Krishna agli altri, raccontarla, spiegare le nostre esperienze in contatto con la coscienza di Krishna, con la vita spirituale. Siccome abbiamo visto un buon effetto di questo tipo di vita nelle nostre coscienze, crediamo che sia giusto comunicarlo agli altri. Il video è un tipo di messaggio completo. C'è sempre stata un po' di rivalità fra la televisione, la radio, il libro scritto, tre modi diversi che hanno tempi di realizzazione molto diversi, modalità di realizzazione anche diverse. Il video è molto più complesso della radio. Con la radio uno si può sedere vestito non importa come e parla. Con il libro invece uno può riflettere, correggere numerose volte. Quando ero ragazzo c'erano ancora le macchine da scrivere e non si poteva correggere tanto. Adesso con il computer si scrive, si toglie tutto in un attimo, molto comodo. Il video è uno dei mezzi più potenti, anche uno dei mezzi più complicati da realizzare. Ora noi siamo un po' così, organizzati in maniera molto, molto garibaldina, con una telecamera da pochi dollari, con un microfono che non sta dove deve stare, e via dicendo. Comunque sono sempre gli inizi più modesti, più umili, poi a dare maggiori soddisfazioni quando la cosa cresce, quando la cosa diventa importante, fatta bene. Noi ci teniamo sempre a fare le cose fatte bene, non ci piacciono le cose a metà. Faremo quello che è possibile. Abbiamo bisogno di una telecamera, perché chiaramente tutto quello che possiamo e vogliamo prendere non si può certo prendere con la telecamerina, non si può andare in giro con il computer portatile e la telecamera. Immaginate se in questo momento io fossi in India invece che qui a Porto Rico. Immaginate quanto potrei riprendere, quanti bei programmi potrei realizzare. Magari potrei andare al tempio del Radha Madana Mohan, sedermi sulle scalinate, no? E raccontare lì la storia della costruzione del tempio di Madana Mohan, la storia di Srila Sanatana Goswami. Oppure, non so, potrei andare nel stupendo quartiere di Vrindavana, che è del tempio di Radha Raman, il tempio dei Goswami, fare un'intervista a Padmanabha Goswami, agli altri Goswami della famiglia, chiedere tante belle cose e nel frattempo riprendere tutto in video. Potrei anche semplicemente riprendere i kirtan dei devoti, i programmi dei devoti, insegnare tutto in video, funziona molto meglio. Dalle cose più semplici come mettersi il tilak, la Urdhva Pundra, alle cose più complesse, in video ci si capisce meglio, anche se prende più tempo per la realizzazione. E quindi uno dei tanti progetti che abbiamo iniziato. Questo prenderà un po' più di tempo degli altri prima di manifestarsi in maniera professionale. Ora Isvara ha un suo assetto, una sua base, ha un forum che funziona molto bene, sono molto contento di come sta andando, una biblioteca che cresce, manca un responsabile, speriamo di averlo presto, fate avanti, benvenuti. Abbiamo una radio, anche lì manca un po' il responsabile, benvenuti. E abbiamo tante altre idee, manca soltanto la voglia, l'entusiasmo, la passione di realizzare cose belle per Krishna, per la gente, per il maestro spirituale. E quindi adesso abbiamo iniziato questi video molto semplici, rudimentali. Un giorno, quando realizzeremo dei video stupendi, ripenseremo alle telecamerine, alle teleweb, alle webcam, che costano 20-30 dollari, anzi che le regalano. Questa che sto usando in questo momento ci è stata regalata dalla Telecom portoricana quando abbiamo fatto il contratto per la DSL. Ecco, la DSL merita qualche parola, merita delle considerazioni. Vi esorto voi a farvi una di queste connessioni veloci, una ADSL, qualcosa, altrimenti la radio e i video sono molto difficili da vedere, a partecipare. Quindi vi invito a procurarvi una di queste connessioni veloci e sono convinto che potremo insieme fare tante belle cose. E quindi, che dire, questo è così un video realizzato per riflettere su quello che possiamo fare. Presto, speriamo, avremo la nostra telecamera, potremo realizzare delle lezioni persino giornaliere, mettere in CD, distribuirle, venderle anche in diversi linguaggi, in inglese, in spagnolo. Qui a Porto Rico il tempio Hare Krishna, bel tempio piccolino in cima a una collina, immerso nella foresta tropicale, fanno lezioni in diverse lingue, si possono realizzare delle belle cose. Quindi, che dire, rimanete in contatto con noi, partecipate ad Ishvara e insieme a noi gustate questa bella vita spirituale che ci è stata offerta dal Signore Sri Krishna. Hare Krishna a tutti. State ascoltando Radio Isvara. Che cosa significa Hare Krishna, Hare Rama? Krishna e Rama sono due nomi della stessa persona suprema. Krishna significa colui che affascina tutti, Rama significa colui che infonde gioia, Hare è il vocativo di Ara ed è la sua energia di amore. Il mantra Hare Krishna è una invocazione alla suprema personalità di Dio di concedere il puro servizio devozionale di amore. Avete ascoltato Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. State ascoltando Radio Isvara. La trasmissione che segue va in onda per gentile concessione del Centro Vaikunta, www.centrovaikunta.com. Buon ascolto di Isvara Radio e Hare Krishna. Hare Krishna, buonasera a tutti. Buona permanenza in casa. Ricominciamo qui con coscienza di Krishna, con tutto chiuso. Vi auguro che siate tutti assorti a cantare e ascoltare di Krishna. Nama. Ops. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Shri. Prabhupada Ki Jai. Sembra di essere tornati indietro alla primavera, al lockdown della primavera, mamma mia. Om Agyanate Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitangena Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svaya Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sakajatam Sahagana Laganatan Vitantam Sajivan Sadvaitam Savadutam Parijanam Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchane Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kapatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Cos'è? Ah, Barbara. Namaste Sarasvati Deve Goravani Prachavine. Goravani Prachatiani Satarine. Stiamo continuando il capitolo 49 del libro di Krishna. Krishna, sì? No, no. Erige il forte di Dwarka. Sta costruendo le città di Dwarka. Ricordiamo che Krishna, perché a Mathura è stato attaccato per la 18ª volta da chi? Jarasandha. E simultaneamente c'era questo personaggio, Kaliyavana, dal sud dell'India, che è nato con un grande forte desiderio di attaccare Krishna, di uccidere Krishna, dovuto sua vita passata, mi ricordo. E ha raccolto un esercito enorme di milioni di soldati e praticamente sono arrivati simultaneamente allo stesso momento a attaccare a Mathura, e così Krishna ha deciso, per proteggere i cittadini di Mathura, di trasferirli, di costruire questa nuova città in mezzo dell'oceano, dal mare, a Dwarka, che era tutta un'altra parte. E trasferirli tutti là con Balaram. Adesso continuiamo la lettura, sì, di questo capitolo. Siamo arrivati a metà. Si è appannata la lente. Quando i Deva seppero che Krishna stava facendo costruire, stava facendo costruire una città secondo il suo gusto, gli inviarono dai pianeti celesti il famoso fiore Parijata, che è un fiore che abbiamo visto in India, poi non sappiamo se fosse veramente il Parijata, però era profumatissimo, e crescevano durante il mese di Kartik, che sta arrivando adesso, il primo di novembre, e cadevano di notte, quindi i devoti mettevano un telo di cotone sotto l'albero e la mattina trovavano tutti questi fiorellini bianchi con il gambo arancione. È un profumo incredibile, indescrivibile. E vediamo, questo Parijata sembra che gli fu donato da Indra, no? Dai pianeti celesti, forse non proprio donato, ma Krishna se l'è andato a conquistare. L'ha preso. Sì, se l'è preso, insomma, non è che Indra glielo volesse dare. Allora, il fiore Parijata, gli inviarono dai pianeti celesti il fiore pareggiata per abbellire i giardini della città. In questo caso i Deva gli avevano dato il fiore, però quando lo voleva Satyabhama ha dovuto andare a conquistarlo. Gli offrirono anche un palazzo per le assemblee chiamato Sudharma, che si distingueva da tutti gli altri perché chiunque si riuniva in quel palazzo diventava immune dall'infermità e dalla vecchiaia. Wow! Anche del virus. Anche da... sì, naturalmente. Andiamo in questo palazzo, dai, facciamo la quarantena lì, cosa ne dite? Varuna offrì un cavallo tutto bianco, eccetto le orecchie, nere, che correva alla velocità del pensiero. Kuvera, il tesoriere dei Deva, offrì l'arte di raggiungere le 8 perfezioni dell'opulenza materiale. Così ogni Deva fece un dono particolare, secondo le sue capacità. Ci sono 33 milioni di Deva, immaginate quanti regali. E ognuno si occupa di una sezione dell'amministrazione dell'universo, ma tutti vollero cogliere l'occasione per presentare le offerte al Signore Supremo che faceva costruire una città di suo gusto, rendendo così Dwarka unica nell'universo. Esistono dunque numerosi Deva, ma nessuno di loro è indipendente da Krishna. Krishna è il Signore Supremo e tutti gli altri sono i suoi servitori, afferma il Chaitanya Charitamrita. Così tutti i servitori del Signore approfittarono della sua presenza nell'universo materiale per offrirgli il proprio servizio. Esempio questo che tutti dovrebbero seguire, in particolare coloro che sono nella coscienza di Krishna, perché essi dovrebbero offrire le loro capacità nel servizio al Signore. Ultimata la costruzione della nuova città secondo i piani prestabiliti, Krishna vi accolse tutti gli abitanti di Mathura. Ci vorrebbe adesso una città così da andare con Krishna. E affidò... C'è ancora? Sì, questa è un'oasi, come diceva Paramananda, un'oasi di Vaikunta. E a Shri Balarama, il ruolo di padre della città. Poi, dopo essersi consultato con lui, il Signore uscì dalla città con una ghirlanda di fiori di loto al collo e disarmato per incontrare Kalayavana che aveva attaccato Mathura. Simpatico questo demone Kalayavana, adesso sentiamo un po'. Che fine gli fa fare Krishna? Qui. Kalayavana non aveva mai visto Krishna prima di allora. E scorgendolo mentre usciva dalla città rimase spalordito dalla sua bellezza eccezionale, resa ancora più straordinaria dai suoi abiti gialli. Passando attraverso le linee dei suoi guerrieri, Krishna sembrava la luna quando in cielo attraverso le nuvole. Dalla sua fortuna, Kalayavana riuscì anche a distinguere lo Shivatsa, il segno che orna il petto di Sri Krishna. È acceso? Sì, lascia stare. Ah, ok. Che orna il petto di Sri Krishna e il gioiello Kastuba che spicca sul suo torace. Ma la forma di Krishna che egli vide fu quella di Vishnu, dal corpo possente, con 4 braccia e gli occhi come petali di fiori di loto appena sbocciati. Krishna era raggiante di felicità, la fronte elegante illuminava l'ovale meraviglioso del suo volto, gli occhi erano sorridenti e vivaci, gli orecchini oscillavano. Qualcuno si ricorda la forma degli orecchini? Sì, scrivetelo. No, non c'è. No, che lo dovevano scrivere. La forma delle orecchine di Krishna. Io l'ho letto 2 tipi. Una è la forma del squalo e un'altra paio è la forma di alligatori. No, chiedimi. Era proprio lui, Krishna, di cui Kalayavana aveva sentito parlare un tempo nelle meravigliose descrizioni del saggio Narda. Ora rivedeva nella realtà tutti quei segni caratteristici, i gioielli sul petto, la splendida ghirlanda di fiori di loto, i suoi occhi di loto, il profilo armonioso del suo corpo, sì, ogni dettaglio corrispondeva alle descrizioni del saggio Narda. Non c'era alcun dubbio, davanti a lui c'era Vasudeva in persona. A un tratto Kalyavana si accorse con sorpresa che il Signore avanzava a piedi attraverso le sue truppe, senza carro e senza alcun arma in mano. Immaginate la scena. Egli era venuto per affrontare Krishna, ma i principi militari, cui egli portava ancora rispetto, non gli permettevano di prendere le armi contro un nemico disarmato. Avrebbero lottato dunque corpo a corpo. Così si preparò a catturare il Signore e a combattere. Ma Krishna passò oltre senza degnarlo di uno sguardo. Proprio non l'ha neanche filato, no? Peggio che essere sfidato, cioè l'indifferenza. Che non esiste, no? Tu non sì. Esiste. E Kalyavana, sempre più determinato ad affrontarlo, fu costretto a rincorrerlo. Correva e correva, ma non riusciva a raggiungerlo. Lo Sri Krishna, che non può essere avvicinato neppure dalla velocità della mente dei grandi yogi, ma può essere conquistato col servizio di devozione. Cioè Krishna camminava e lui correva e correva. Non riusciva ad arrivare. Perché Krishna deve permettere di avvicinarlo. Non possiamo forzare, come quando Madhyashore voleva legare Krishna, non riusciva, aggiungeva pezzi di corda sempre di più, non riusciva. E quando Krishna vedeva che lei era un po' stanca, va bene, ti faccio legare, ti permetto di legarmi. Non possiamo forzare Krishna, possiamo cantare e glorificare Krishna e impegnarsi in servizio devozionale, e quando Krishna vuole, vedendo la nostra sincerità, quando Srimati Radharani vede la nostra sincerità, ci fa la raccomandazione a Krishna. E questo devoto è bravo, dargli la tua misericordia. Sri Krishna, che non può essere avvicinato neppure dalla velocità della mente e dei grandi yogi, ma può essere conquistato col servizio di devozione, non si lasciava avvicinare da Kalyavana, che di servizio devozionale non aveva alcuna esperienza. Kalyavana dovette dunque accontentarsi di seguirlo a distanza. Non è legge. Mentre accelerava la sua corsa, Kalyavana pensava: mi sto avvicinando, presto sarà nelle mie mani. Non riusciva. E intanto Krishna lo portava sempre più lontano. Infine il Signore entrò in una grotta sul pendio di una collina. Allora Kalyavana credette che Krishna si fosse rifugiato là dentro per paura del combattimento, e lo accusò aspramente. Krishna, proprio tu, mi aveva parlato di te come del più grande eroe della dinastia Yadu, ma a dire il vero, ora tu scappi di fronte al combattimento come un codardo. Ti sembra degno della tua fama e della tradizione della tua famiglia? Kalyavana correva dietro al Signore a gran velocità, ma appesantito dalle contaminazioni della sua esistenza peccaminosa, non poteva raggiungerlo. Secondo la cultura vedica, chiunque non applichi nella vita quotidiana i principi regolatori seguiti dai Varna superiori, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, o anche dai Shudra, è considerato un maleccia. La società vedica è organizzata in modo che i Shudra possano elevarsi gradualmente alla posizione di Brahmana attraverso i samskara o riti purificatori. In nessun caso, affermano le scritture vediche, l'appartenenza al gruppo dei Brahmana o dei Malecce è ereditaria. Proprio sottolineo tante volte questa cosa, che non siamo nati Brahmana come non siamo nati dottori. Ma si qualifica attraverso i riti purificatori e la pratica di servizio devozionale uno si purifica e può elevarsi da anche dal più basso livello al più alto livello. Chiunque. Nell'era di Kali tutti sono indistintamente considerati Shudra fin dalla nascita, Kalo Shudra Sambhava. Siamo tutti nati sullo stesso piattaforma e abbiamo la scelta di elevarsi o degradarsi. Purtroppo la maggior parte delle persone scelgono il secondo. Sembra più facile, ma poi più difficile. Per elevarsi a livello brahminico occorre sottoporsi ai riti purificatori, altrimenti ci si degrada ancora di più e si diventa mleccia, che è sotto il livello shudra, uno che non segue niente. Kali Yavana apparteneva al gruppo dei mleccia e degli Yavana, contaminato come era dai suoi atti peccaminosi, non poteva avvicinare Krishna. L'esistenza dei mleccia e degli Yavana è caratterizzata da quelle attività da cui si astengono invece i Varna superiori, cioè i rapporti sessuali illeciti, il gioco d'azzardo, il consumo di carne ed intossicanti. Questi atti colpevoli sono altrettanti ostacoli che impediscono il progresso sulla via della realizzazione spirituale. La Bhagavad Gita lo conferma: solo colui che si è liberato da tutte le conseguenze dei suoi atti peccaminosi può impegnarsi nel servizio di devozione, cioè nella coscienza di Krishna. Il Signore scomparve dunque dentro la grotta e Kali Yavana lo seguì lanciandogli dietro dure accuse. Là, nell'oscurità, la prima cosa che Kali Yavana intravide fu la sagoma di un uomo straiato a terra, addormentato. Nella foga di combattere e nel suo orgoglio di guerriero, pensò fosse Krishna che tentava ancora una volta di sottrarsi al combattimento, facendo finta di dormire. Entra nella grotta, poi si butta lì a dormire. Invece vediamo. E lo colpì con un violento calcio. Risvegliato brutalmente dal calcio di Kali Yavana, quell'uomo, che non era Krishna e dormiva in quel grotta da molto tempo, apre gli occhi e comincia a scrutare nella penombra. Vede infine Kali Yavana che sta in piedi vicino a lui, reso furibondo da quel risveglio prematuro, con lampi di fuoco che gli escono dagli occhi. Quell'uomo incenerisce Kali Yavana fissandolo con uno sguardo spaventoso. Proprio da film di fantascienza. E poi dopo, prossimo capitolo, scopriremo chi è quest'uomo, chi era questo uomo che aveva questo potere, visto che non era Krishna. Così termino gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul 49° capitolo del libro di Krishna, intitolato Krishna erige il forte di Dwarka. Perché praticamente Krishna non vuole uccidere Kali Yavana direttamente, perché non si meritava questa benedizione, essendo anche di casta inferiore, no? Era considerato impeccabile e si vede che non aveva accumulato abbastanza attività virtuose o pie per essere ucciso direttamente da Krishna. Allora Krishna fa in modo che viene ucciso da Muchukunda, questo personaggio misterioso che adesso scopriremo chi è e come ha potuto incenerirlo. Appena Maharaj Parikshit sentì da Shukadeva Goswami il racconto della morte di Kali Yavana, volle sapere chi era quell'uomo addormentato, perché dormiva in quella caverna, come aveva ottenuto il potere di incenerire un uomo con un semplice sguardo. A volte non sarebbe interessante questo potere. O re, rispose Shukadeva Goswami, quell'uomo era nato nelle illustre famiglia del re Ikshvaku, che è menzionato nella Bhagavad Gita come un discendente nella parampara dell'idea del sole, a cui apparteneva anche Sri Ramachandra, figlio del grande re Mandata. Era anche lui una grande anima ed era conosciuto col nome di Muchukunda. Rigido osservante dei principi vedici e sempre fedele alla parola data, il re Muchukunda era così potente che perfino Indra e altri grandi deva chiedevano il suo aiuto nella lotta contro gli Asura. C'è anche battaglia anche nei pianeti superiori, anche se vai in paradiso c'è probabilità di trovarti in mezzo di una guerra, anche là. Il paradiso non è il mondo spirituale. No, sì, il paradiso vuol dire i pianeti superiori del mondo materiale, dove c'era combattimento con gli Asura, che furono da lui affrontati più volte, sempre per proteggere i Deva. Il comandante dell'esercito dei Deva, Kartikeya, apprezzava molto la qualità di Muchukunda, ma ritenendo che il re avesse già fatto fin troppo nella lotta contro gli Asura, lo invitò a ritirarsi dal campo di battaglia e le consigliò di riposare per qualche tempo. Ora, gli disse, tu hai sacrificato tutto per la causa dei Deva. Tu regnavi su un regno meraviglioso e nessun nemico avrebbe mai osato attaccarli. Pagine così sottili. E l'hai lasciato, trascurando ricchezze e proprietà senza nutrire alcune ambizioni personali. Nei lunghi anni della tua assenza, mentre combattevi nella nostra file, le tue famiglie, i tuoi figli, gli amici e i ministri, tutti, col passare del tempo, hanno lasciato questo mondo. Il tempo non si ferma per nessuno e se tu tornassi a casa non troveresti vivo nessuno. Implacabile, il tempo ha spazzato via tutti i tuoi cari. Il tempo è potente perché rappresenta Dio, la persona suprema. Nulla è dunque più potente del tempo. Egli opera senza difficoltà anche i cambiamenti più sottili e nessuno può fermarlo. Come un domatore fa muovere le sue bestie, così il tempo modifica ogni cosa a suo piacimento. Nessuno può sostituire la propria volontà a quella del tempo supremo. Rivolgendosi così a Muchukunda, i Deva gli offrirono qualunque benedizione avesse desiderato, eccetto la liberazione. Questo infatti solo il Signore Supremo, Sri Vishnu o Krishna, può concederla. Perciò Krishna è chiamato anche Mukunda, colui che può offrire la liberazione. Il re Muchukunda aveva trascorso molti e molti anni senza dormire, durante i quali aveva combattuto dure battaglie. Sentiva perciò il peso di un'immensa stanchezza e pensò subito di ristorarsi con un buon riposo quando i Deva gli offrirono la loro benedizione. L'unico cosa riusciva a pensare, sono stanco, basta, voglio dormire, queste benedizioni. Risposto quindi, o Kartikeya, il migliore tra i Deva, il mio unico desiderio è ora quello di riposare, perciò ti prego, accordami il potere di incenerire con un semplice sguardo chiunque osi turbare il mio sonno e mi sveglia prima del tempo. Così, con la benedizione di un riposo indisturbato, il re entrò nella caverna. Ecco perché riuscì a incenerire Kalayavana. Aveva queste benedizioni come gratitudine da parte dei Deva per il suo servizio di combattere gli Asura. Passò molto tempo finché un giorno, grazie al favore accordato di Kartikeya, Kalayavana fu ridotto in cenere con la forza di un semplice sguardo. Il Signore era entrato in quella caverna col preciso scopo di liberare il re Mucchunda addormentato là dentro, ma poiché desiderava anche eliminare l'aggressore di Mathura, Kaliyavana aveva fatto in modo che Mucchunda scorgesse Kaliyavana, raggiungendo così con una sola azione entrambi gli scopi. Krishna è esperto in tutto, sapeva che c'era questa benedizione a questa sul devoto che è nel caverna, voglio uccidere questo ma non posso toccare, così è fatto tutto questo arrangiamento di eliminare i cari. Krishna fa sempre più di una cosa con ogni mossa, per la sua qualità di essere esperto. Se con un'attività ne copre altre 10. Così agisce il Signore Supremo, uno solo dei suoi atti serve a più scopi. Morto Kaliyavana, Sri Krishna si mostrò al re Mucchunda. Il Signore era nella sua forma di Vishnu Murti, a quattro braccia, sfolgorante nei suoi abiti gialli, col simbolo di Shivaja sul petto e il Kaustubha Mani intorno al collo, e con le ghirlande Vajrayanti che scendeva fino a sfiorargli le ginocchia, col volto illuminato da un sorriso meraviglioso e incorniciato da stupendi orecchini di pietre preziose. Krishna era di una bellezza che è al di là delle immaginazioni di qualunque essere umano. Il Signore si rivelava così a Mucchunda, a cui rivolse sguardi di uno splendore così grande che il re ne fu affascinato. Sebbene fosse Dio la persona suprema, il primo e il più antico degli esseri, egli aveva l'aspetto di un giovane dall'eterna freschezza e le movenze di un cervo grande e libero nella foresta. Appariva di una tale potenza che tutti gli uomini dovrebbero temerlo. Di fronte all'aspetto magnifico di Krishna, Mucchunda si rivolse a lui umilmente, mosso dal desiderio di sapere chi fosse il personaggio maestoso che gli stava davanti. Mio Signore, posso chiederti i motivi che ti hanno spinto fin qui in questa caverna? Chi sei? I tuoi piedi sembrano delicati come fiori di loto. Come hai potuto attraversare a questa foresta irta di spine e di rovi? Sono sorpreso. Non sei tu forse il Signore Supremo, il potente tra i potenti, la fonte originale della luce e del fuoco? O devo considerarti uno dei grandi Deva come il Sole, la Luna o Indra, il re dei pianeti celesti? O forse sei il Deva maestro di qualche altro pianeta? Mucchunda sapeva che ogni sistema planetario superiore è governato da un Deva supremo, sovrano. Egli non era dunque nell'ignoranza come l'uomo d'oggi. Infatti l'uomo d'oggi crede che fra tutti i pianeti soltanto la Terra sia abitata. La domanda di Mucchunda sull'identità di Krishna come Deva maestro di un pianeta a lui sconosciuto e dunque pertinente. Però, come pure devoto dal Signore, il re capì subito che Sri Krishna, per il suo splendore, non poteva essere un semplice Deva, né poteva appartenere al mondo materiale. Non poteva essere che il Signore Supremo, Krishna, la fonte di innumerevoli forme Vishnumurti. Presente davanti a lui c'era dunque Purushottam, Sri Vishnu. Mucchunda si era accorto che le dense tenebre della caverna si erano dissipate in sua presenza, perciò non c'erano più dubbi, quell'essere era proprio Dio, la persona suprema. Mucchunda sapeva bene che ovunque il Signore è presente in persone, col suo santo nome assoluto, i suoi attributi e la sua forma, le tenebre dell'ignoranza soccombono. Il Signore è come una torcia nell'oscurità, illumina immediatamente ogni luogo buio. Desiderando avere da Krishna stesso la conferma della sua identità, il re disse: «Oh, tu che sei il migliore tra gli uomini, se ritieni che io sia degno di conoscerti, allora ti prego, dimmi chi sei. A quale stirpe appartieni? Qual è la tua posizione e la tua tradizione familiare?» Il re Mucchakunda pensò poi di rivelare al Signore la propria identità prima di indagare sulla sua, perché l'etichetta vuole che una persona inferiore non chieda a un'altra di natura superiore la sua identità se prima non ha rivelato la propria, l'etichetta. Perciò il re continuò: «O Signore, devi sapere che appartengo alla dinastia più famosa, quella del re Ikshvaku, anche se personalmente non possiedo la grandezza del mio antenato. Ma mi chiamo Mucchakunda e sono figlio di Mandata, mio nonno era il grande re Yuvanashva. Dopo migliaia e migliaia di anni trascorsi senza mai riposare, sentendomi allo stremo delle forze e con le membra indebolite e quasi incapace di agire, mi ero ritirato in questa caverna per riacquistare vigore, fin quando uno sconosciuto non venne a interrompere il mio riposo. Per questa offesa io l'ho ridotto in cenere con uno sguardo». Stai attento quando sei sveglio, qualcuno accompagna in casa domani mattina. «Per questa offesa io l'ho ridotto in cenere con uno sguardo, ma ora che ho la fortuna di contemplare il tuo aspetto, così bello e maestoso, penso che proprio tu sia stato a volere la morte di quell'individuo. O Signore, davanti allo sfolgorio accecante del tuo corpo, i miei occhi non riescono a vederti distintamente. So che la mia potenza, per quanto grande, quasi scompare di fronte alla tua, che si è manifestata con tanto fulgore. O Signore, tu sei degno dell'adorazione di tutti gli esseri». Vedendolo così ansioso di conoscere la sua identità, Sri Krishna si rivolse sorridendo a Mucchakunda: «Caro re, la mia apparizione, la mia scomparsa, i miei atti è impossibile descriverli. Come tu forse sai, la mia emanazione plenaria, Anantadeva, con le sue innumerevoli bocche, sta tentando da tempo immemorabile di esprimere con parole il mio nome, la mia fama, i miei attributi, i miei atti, la mia apparizione, la mia scomparsa e le mie discese in questo mondo. Ma ancora non vedi il termine della sua impresa». Verso il segno. «Com'è possibile dunque conoscere tutti i miei nomi e le mie forme? Uno scienziato potrà calcolare il numero degli atomi che compongono la Terra, ma non i miei nomi, forme e attività, che sono infiniti. Neanche i grandi saggi e santi Bhakta, che tentano da sempre di elencare le mie svariate forme e attività, sono mai riusciti a concludere la loro opera. Ma poiché tu sei molto ansioso di conoscermi, sappi che io sono disceso ora su questo pianeta per distruggere i principi demoniaci che hanno invaso l'umanità e per ristabilire i principi della religione prescritti dai Veda». Accogliendo l'invito di Brahma, il Deva Maestro di questo universo, a compiere questa missione, sono apparso nella dinastia Yadu come uno dei suoi componenti, scegliendo come padre Vasudeva, da cui il mio nome Vasudeva cioè figlio di Vasudev. Sappi inoltre che ho ucciso Kamsa, che era Kalanemi nella sua vita precedente, e per l'Ambasura, insieme a molti altri Asura ancora, che si sono comportati da nemici, come quell'Asura apparso qui, che tu hai incenerito con lo sguardo. Caro Muchukunda, ho voluto mostrarti la mia misericordia incondizionata apparendo di fronte a te in questa forma, che puoi ora ora contemplare finché ti sentirai appagato, perché tu sei un mio grande devoto, come lo sei stato anche nella tua vita precedente, quando invocasti la mia misericordia. E io, che nutro un profondo affetto verso i miei devoti, sono venuto per soddisfare la tua richiesta, per accordarti la benedizione che desideri, perché il mio principio eterno è esaudire con la mia grazia i desideri di chiunque prende rifugio in me. Leggo ancora un po'. Quando Sri Krishna le offrì la sua benedizione, Muchukunda ricordò subito con grande gioia l'antica profezia di Garuda Muni, che pronunciava la venuta di Sri Krishna su questo pianeta nella 28esima era di Vaivasvata Mana. Così il re venne a conoscenza che di fronte a lui era la persona suprema, Narayana, nella forma di Sri Krishna, e prontamente cadde ai suoi piedi di loto e gli rivolse questa preghiera. Io concludo qua, perché come c'è queste preghiere sono abbastanza lunghi e complessi, e cantiamo Nishingadeva, che ce n'è bisogno, c'è molto bisogno, per dire poco in questo momento di così grande confusione. Meno male che c'è Krishna e Nishingadeva, e soprattutto Nishingadeva. Yeah. Prasad Maharaj Ki Jai. Go Premanandi. Hari Bol. Tutte le gore devoti riuniti. Hare Krishna. Anche riuniti qua. Hari Bol. Ci vediamo domani sera con la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Same time, alle 8, alle 20. Ah, ok. Hari Bol. Hari Bol. State ascoltando Radio Isvara. Radio Cucina. Ricette vegetariane lette in pochi secondi da Ramananda Das. Buon ascolto e Hare Krishna da Radio Isvara @gmail.com. Nuova ricetta di Ramananda Das qui su Radio Ishvara. Vi ricordo che potete scriverci radioishvara@gmail.com. Buon ascolto e Hare Krishna. Oggi Ramananda in cucina esplorerà la cucina vegetariana indiana. Iniziamo con gli ingredienti di base della cucina indiana. Oggi parleremo di una miscela di spezie per curry, occorrente per un barattolo di miscela, un cucchiaio di semi di coriandolo macinato, due cucchiai di curcuma in polvere, mezzo cucchiaino di pepe, un cucchiaino di cannella, un cucchiaino di cardamomo in polvere, un cucchiaio di semi di cumino tostati e macinati, mezzo cucchiaio di peperoncino in polvere, due cucchiai di radice di zenzero in polvere, mezzo cucchiaino di asafetida in polvere. Mescolate tutte le spezie assicurandovi che siano ben asciutte. Poi mettetele in un barattolo di vetro ben asciutto e conservate in luogo buio e fresco. All'occorrenza agitate il contenitore e poi prelevate un cucchiaio o un cucchiaino di miscela per aggiungerla a zuppe o piatti di verdure. Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, siamo arrivati al sesto capitolo intitolato Un amico sconosciuto. Le persone fortemente coinvolte nella presunta consapevolezza di godere del mondo materiale e che per conseguenza avevano quindi accettato come capo o guru un uomo cieco come loro, attratto dagli oggetti dei sensi, non possono capire che l'obiettivo dell'esistenza consiste nel tornare a casa da Dio e nell'impegnarsi al servizio di Sri Vishnu. Come i ciechi guidati da altri ciechi perdono il giusto sentiero e cadono in un fosso, così uomini attaccati alla materia, guidati da altri uomini attaccati alla materia, sono legati dalle funi dell'attività interessata e sono legami molto forti e conducono una vita improntata a un crescente materialismo, soffrendo delle triplici miserie. Il Vaishnava prega il maestro spirituale, colui che ha aperto i miei occhi con la torcia della conoscenza trascendentale, e si sente obbligato ad aiutare l'umanità portando agli altri la stessa torcia. Come rappresentante dell'eterna Parampara Vaishnava, Abai voleva portare la luce della conoscenza trascendentale nell'ambito della crisi e delle crisi che si stavano verificando. Questo era stato il proposito del Back to Godhead. Benché fin dal 1944 egli non fosse stato più in grado di stampare la rivista. Tuttavia, anche se era privo dei mezzi per pubblicare, Abai continuava a scrivere. Il suo più ambizioso progetto era la Gita Upanishad, la traduzione e il commento della Bhagavad Gita. Gandhi e altri parlavano spesso della saggezza contenuta nella Bhagavad Gita. Gli indiani non dimenticavano mai la loro Gita, ma i maggiori esponenti non l'avevano mai insegnata, come Krishna l'aveva insegnata. Non riconoscevano Sri Krishna, colui che parla nella Gita, come Dio, la persona suprema. Volevano invece estrarre le sue parole per sostenere le loro particolari filosofie. Sia i capi politici, sia i capi religiosi o gli studiosi, quasi invariabilmente, davano le loro simboliche e allegoriche interpretazioni. Abai voleva presentare la Bhagavad Gita così com'è. Dovevano essere 1200 pagine, tre bei volumi illustrati e rilegati. Per Abai i volumi erano già una realtà dalla quale solo il tempo li separava. Nei due anni precedenti aveva accumulato centinaia di pagine manoscritte. Poiché aveva scritto su quaderni di appunti e su pagine volanti, segnò con numeri le pagine manoscritte. Non poteva dedicare tutto il suo tempo al libro, ma gradualmente esso cominciò a prendere forma. Egli predicò anche il messaggio di Sri Chaitanya attraverso le lettere indirizzate a molti capi di governo, a personalità che conosceva o a persone di cui aveva letto gli articoli o le cui attività avevano attratto la sua attenzione nei giornali. Presentandosi come umile servitore, egli trasmetteva loro le sue idee sul modo in cui l'originale cultura cosciente di Krishna dell'India poteva essere applicata con successo a tutte le categorie di dilemmi. Talvolta le lettere richiedevano risposte e Abai rispondeva cercando di tenere vive le scintille di interesse dovunque le trovasse. Un ben noto riformatore, Mahendra Pratap Raja, aveva fondato ciò che egli definiva una federazione mondiale. Abai aveva letto un giornale che Mr. Pratap aveva pubblicato da Vrindavana. Egli si rivolgeva a tutte le nazioni e popolazioni del mondo, invitandole all'unità del genere umano. Abai gli scrisse suggerendo che gli insegnamenti di Sri Krishna della Bhagavad Gita fornivano una scienza teistica capace di unire tutte le religioni. Nel maggio 1947 Mr. Pratap rispose: ammiro la tua profonda analisi della Srimad Bhagavad Gita. Sono io stesso un grande ammiratore del famoso classico. Ti assicuro che sto lavorando in piena aderenza con il testo. Mr. Pratap citò il suo libro, Religione dell'amore, e suggerì ad Abai di leggerlo se voleva conoscere il punto di vista religioso della Federazione Mondiale. Intanto, Mr. Pratap scriveva, non concordo con il tuo suggerimento di rendere il nome di Krishna o di Govinda la base dell'unità religiosa. Ciò equivale a una conversione e non porta all'unità delle religioni. Apprezzo grandemente il tuo sforzo nel dirigere il Back to Godhead. Abai ricevette il libro, lo lesse e nel luglio del 1947, mentre stava visitando Kapoor, scrisse una risposta. Aveva viaggiato fino a Kanpur non come maestro spirituale ma come venditore di medicine, eppure un dattilografo fu reperibile e poté far uscire la sua predica. In seguito alla mia ultima cartolina postale desidero informarvi che ho finito di leggere il vostro libro Religione dell'amore. Secondo la mia opinione, l'intera tesi è basata sulla filosofia del panteismo e il metodo per accedervi poggia sul servizio reso al genere umano. Religione d'amore è la vera idea religiosa, ma se l'approccio avviene solo attraverso il servizio reso al genere umano, il procedimento resta imperfetto, parziale e non scientifico. La vera religione d'amore è perfettamente contenuta nella Bhagavad Gita, inoltre non avete citato alcuna autorità per le vostre affermazioni, il che rende la tesi più o meno dogmatica. Se uomini differenti avanzano punti di vista differenti a proposito di religione e dei suoi elementi essenziali, chi deve essere accettato e chi non deve esserlo? Perciò il modo di affrontare l'argomento sarà e dovrà essere autorevole, scientifico e universale. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Abai dava poi il sommario della Bhagavad Gita in 10 punti, concludendo: il servizio più elevato che può essere reso al genere umano consiste perciò nel predicare la filosofia e la religione della Bhagavad Gita in tutti i tempi, in tutti i luoghi e per tutti gli uomini. Tuttavia, le sue lettere generalmente non sfociavano in un dialogo filosofico esteso. Nel 1947, quando Abai scrisse agli alti funzionari governativi del recente governo indiano suggerendo un rimedio per i tumulti, essi lo ignorarono. Quando chiese di parlare con il governatore del Bengala occidentale, il segretario del governatore rispose: Sua Eccellenza si duole di non poter concedere un'udienza al presente a causa dei pressanti impegni di lavoro. Quando scrisse al segretario aggiunto del Ministero dell'Educazione, il segretario rispose: Il governo dell'India si duole di non essere in grado di aderire alla vostra richiesta. Talvolta l'interesse ufficiale prendeva la forma di un buffetto protettivo sulla testa. Sono certo che il vostro progetto di ristabilire la pace avrà la risposta del nostro primo ministro. E un altro: Egli, il ministro dell'educazione, è contento di constatare che state prendendo la strada del comunitarismo e gli suggerisce di mettervi in contatto con... puntini puntini. Un funzionario del luogo chiese di non essere visitato. Vi ringrazio per tutto ciò che avete scritto e per i nobili sentimenti espressi. È inutile discutere l'argomento, perché non penso di poter in qualche modo rendermi utile unendomi all'organizzazione che è vostro desiderio istituire. Per questa ragione non è necessario che vi prendiate il fastidio di vedermi. Tuttavia vi auguro ogni successo. In ottobre, dopo i tumulti del 1947 a Calcutta, Abai scrisse al presidente del comitato di riabilitazione, il quale rispose: A proposito di Hari Kirtana e Prasadam, voi potete fare qualsiasi programma sia di vostro gradimento, ma temo di non essere a mia volta interessato all'argomento di cui sopra, né lo è il mio comitato, perciò non vedo la necessità di un vostro incontro con me. Abai stava adempiendo il suo ruolo di predicatore Vaishnava e le segreterie dei vari uffici governativi lo riconoscevano e si rivolgevano a lui in quanto Vaishnava. Tuttavia, essi non potevano apprezzare le applicazioni della filosofia della Bhagavad Gita e suggerimenti di Hari Kirtana. Occasionalmente, però, capitava che qualcuno si mostrasse interessato. Mr. N.P. Astana, un avvocato dell'alta corte, rispose: vi sono molto riconoscente per la vostra lettera, l'ampio progetto di un perfezionamento spirituale. Apprezzo totalmente i sentimenti elevati che vi hanno suggerito di scrivere questa lettera e la gentilezza con cui avete preso in considerazione il mio quesito. Sono stato uno studente della Bhagavad Gita e ho anch'io assimilato alcuni dei suoi insegnamenti, ma poiché manco di buon comportamento e di volontà, sarei contento di essere guidato da una persona di tanta compitezza quale voi siete. Perciò, se voleste inviarmi il vostro progetto, dopo averne preso atto, sarò in grado di esprimere il mio punto di vista. Era inevitabile che Abai pensasse di impegnare il Mahatma Gandhi nel servizio devozionale. Grazie alla sua coraggiosa e ascetica e alle attività morali compiute per il bene dei suoi conterranei, Mahatma Gandhi era dotato di un grande potere che gli permetteva di influenzare le masse indiane. Come per Mahendra Pratap della Federazione Mondiale, anche l'idea di Mahatma Gandhi consisteva nel tentativo di dare agli uomini la felicità servendosi della politica e di metodi di sua invenzione. Un gentiluomo inglese aveva detto di Mahatma Gandhi: egli è un santo tra i politici e un politico tra i santi. Ma se questo poteva essere vero, egli non era comunque pienamente impegnato nel puro servizio devozionale e le sue attività non erano quelle di un Mahatma, secondo la descrizione della Bhagavad Gita. La Gita definisce Mahatma la persona che si impegna completamente nell'adorazione di Sri Krishna, in quanto Dio, la persona suprema, e canta sempre le sue glorie. Il Mahatma incoraggia gli altri ad arrendersi a Krishna. Tuttavia, essendo stato in gioventù un seguace di Gandhi, Abai aveva un sentimento particolare per lui. Naturalmente Bhaktisiddhanta Sarasvati l'aveva più tardi convinto a impegnarsi esclusivamente nel servizio devozionale. Ma ora Abai sentiva la sua vecchia amicizia per Gandhi, perché benché Gandhi fosse una figura dominante di fama mondiale e lui uno sconosciuto, sia per Gandhi che per il mondo. Il 7 dicembre del 1947 Abai scrisse a Gandhi da Kanpur. Gandhi viveva a Palazzo Birla, a Delhi, dove ampie forze militari stavano scoraggiando in tutta la città i tumulti tra hindu e musulmani. Il segretario di Gandhi, Pyarelal Nayar, definì Gandhi a quel tempo l'uomo più triste che si possa dipingere. Gli uomini che avevano guidato nella lotta per l'indipendenza dell'India, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel e altri, avevano assunto la guida della nazione. Gandhi, con le sue dottrine della non violenza, dell'unità e come sostenitore dell'agricoltura, era adesso in disaccordo con loro per molti aspetti. Temeva di essere diventato anacronistico. I suoi antichi colleghi lo ammiravano, ma rifiutavano le sue direttive. Tutti i suoi programmi, unità tra indù e musulmani, non violenza, elevazione dei poveri, benché elogiati in tutto il mondo, erano fallimentari nell'India del 1947. In una recente visita all'accampamento dei rifugiati musulmani, una moltitudine di musulmani aveva circondato la sua automobile e lo aveva maledetto. Inoltre, in un incontro pubblico di preghiera, una folla di hindu aveva inveito contro di lui e aveva fatto chiudere la riunione. Quando egli aveva tentato di leggere un passo tratto dal Corano, a 78 anni, Gandhi era fisicamente debole e melanconico. Con ogni probabilità la lettera di Abai non lo raggiunse mai. Abai lo sapeva. Spedire una lettera a Gandhi equivaleva a porre uno scritto in una bottiglia e affidarla al mare. Sarebbe capitata in un diluvio di posta e Gandhi sarebbe stato troppo occupato per vederla. Tuttavia, Abai la spedì. Caro amico Mahatmaji, accetta, ti prego, il mio rispettoso Namaskar. Sono un amico sconosciuto, ma talvolta ho dovuto scriverti e ripetutamente perché non mi hai risposto. Ti inviai il mio giornale, Back to Godet, ma i tuoi segretari mi dissero che non avevi certo il tempo di leggere le lettere, tantomeno quindi i giornali. Ho chiesto di poterti incontrare, ma i tuoi segretari, sempre occupati, non si sono mai curati di rispondermi. In ogni modo, poiché io sono un tuo vecchio amico, benché tu non mi conosca, ti sto scrivendo nel tentativo di portarti alla giusta posizione che meriti. Come amico sincero, non devo deviare dal mio dovere verso un amico quale il tuo vero sé. Come amico sincero, voglio dirti che devi immediatamente ritirarti dalla politica attiva, se non desideri fare una morte ingloriosa. Hai 125 anni per vivere come hai desiderato. Ma se dovrai subire una morte ingloriosa, che vantaggio c'è? L'onore e il prestigio da te ottenuti nel corso della tua vita presente non avrebbero potuto essere raggiunti da nessun altro a memoria d'uomo. Tuttavia devi sapere che tutti questi onori e prestigi sono falsi perché sono creati dall'energia illusoria di Dio, chiamata Maya. Riferendomi a questa falsità, non intendo dire che i tuoi molti amici fossero falsi verso di te o tu falso verso di loro, ma falsità intendo illusione. In altre parole, la falsa amicizia e gli onori ottenuti appartenevano all'ambito della creazione di Maya. E per questa ragione essi sono sempre temporanei o falsi, come tu preferisci definirli. Nessuno di noi, tuttavia, né i tuoi amici e nemmeno tu, conosce questa verità. Si presuppone che un sadhu non lusinghi, ma incida in profondità. Questa è la base dell'amicizia, che tolga di mezzo l'illusione propria della vita materiale. Mahatma Gandhi, abbandonato dai suoi amici, profondamente amareggiato per il risultato della lunga, dura lotta per l'indipendenza dell'India, apprensivo circa il futuro, era stato ridotto in una situazione in cui avrebbe potuto essere in grado di realizzare che i suoi amici e il suo impegno erano in definitiva illusioni. Questo era per lui il momento perfetto per comprendere il messaggio di Abai. E Abai continua nella sua lettera. Ora, per grazia di Dio, questa illusione sta per essere eliminata e i tuoi fedeli amici, quali Acharya Kripalini e altri, stanno accusandoti di essere incapaci di dar loro al presente un qualsiasi programma pratico di lavoro. Ciò che invece era accaduto al tempo glorioso del movimento di non cooperazione. così sei nella situazione di dover trovare una giusta soluzione ai presenti grovigli politici creati dai tuoi oppositori. Perciò dovresti prendere nota dell'avvertimento di un insignificante amico quale sono io, a meno che tu non ti ritiri tempestivamente dalla politica e ti impegni totalmente nell'opera di predica della Bhagavad Gita, che è la vera funzione del Mahatma, dovrai affrontare una morte ingloriosa, come quella che Mussolini, Hitler e Lloyd George affrontarono. Per anni era stato desiderio di Abai avvicinarsi a Mahatma Gandhi con questo messaggio. Infatti egli gli aveva scritto precedentemente, benché ciò non fosse stato di alcun vantaggio. Ora però era convinto che se Gandhi non usciva dalla scena politica avrebbe dovuto affrontare una morte ingloriosa. Il fatto che Gandhi continuasse la sua politica attiva invece di predicare il servizio devozionale lo pose in una posizione che richiedeva un avvertimento. Abai aveva scritto per salvare un amico. E la lettera continuava. Puoi facilmente capire che i tuoi nemici politici, in veste di amici, indiani e inglesi, ti hanno deliberatamente ingannato e ti hanno spezzato il cuore procurando a te il medesimo male contro il quale hai duramente lottato per anni e anni. Tu volevi principalmente l'unità di indù e musulmani in India e loro hanno usato la tattica di mandare in rovina la tua opera, rendendo l'India e il Pakistan due nazioni separate. Tu volevi la libertà dell'India, ma essi hanno provocato la dipendenza permanente dell'India. Volevi fare qualcosa per l'elevazione dei Bangi, ma essi hanno corrotto i Bangi, benché tu vivessi in una comunità di Bangi. Perciò si tratta solo di illusioni e quando questa situazione ti sarà presentata nella sua realtà dovrai considerarla un messaggio di Dio. Dio ti ha favorito dissipando l'illusione in cui ti sei trovato, sospeso, la medesima illusione con la quale avevi alimentato quelle idee come verità. शब्दातिकशब्दसह शिशिरशर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयपुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशः अनाधिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरङ्गदः Abai doveva doverosamente tentare di informare Gandhi che non vi è nulla di assoluto nell'ambito di questo mondo relativo. Ahimsa, ossia la non violenza, deve essere seguita dalla violenza, come la luce è seguita dalle tenebre. Niente è verità assoluta nel mondo duale. Tu non lo sapevi, scrisse Abai, né ti sei curato di attingere questa conoscenza dalle giuste fonti. Per questa ragione tutti i tuoi tentativi per creare l'unità erano seguiti dalla mancanza di unità e Ahimsa era seguita da Himsa. Abai metteva in rilievo il fatto che Gandhi non si era mai sottoposto alla norma pratica richiesta per l'avanzamento spirituale, cioè quella di accettare un maestro spirituale, benché la Bhagavad Gita confermi la necessità di accettare un guru che appartenga a una linea di successione di discepoli. Gandhi era ben noto perché ascoltava la sua voce interiore e perché desumeva le sue idee da scrittori quali Ruskin e Thoreau e le mescolava con gli insegnamenti tratti dal Nuovo Testamento e dalla Gita. Se Gandhi avesse avvicinato un guru, disse Abai, non sarebbe rimasto confuso nella sfera della verità relativa. Nella Katha Upanishad si trova l'ingiunzione di avvicinare un guru autentico, il quale non soltanto deve essere esperto in tutte le scritture del mondo, ma deve essere anche un'anima realizzata nel Brahman assoluto. Se si vuole apprendere la scienza della verità assoluta, anche nella Bhagavad Gita c'è la seguente istruzione. Tadbidi pranipatena pariprasnena sebaya upadekshanti te gyanam gyanina tatvatar sinaha. So che non ti sei mai sottoposto a tali insegnamenti trascendentali, fatta eccezione per alcune rigide austerità da te ideate per un preciso scopo e che hai esercitato la tua inventiva mentre sperimentavi le verità relative. Avresti potuto evitarle facilmente avvicinando un guru, come ho già detto precedentemente. Così Abai, riconoscendo le qualità divine di Mahatma Gandhi e le sue austerità, gli chiese di impegnare la sua elevatezza morale per arrendersi alla verità assoluta. Abai lo spingeva ad abbandonare la politica immediatamente. Tuttavia i tuoi sforzi sinceri per ottenere con le austerità alcune qualità divine sicuramente ti hanno innalzato a un livello più elevato di cui puoi fare un uso migliore se te ne servi per servire la verità assoluta. Se però ti accontenti della tua posizione temporanea e non cerchi di conoscere la verità assoluta, allora certamente dovrai cadere dalla posizione artificialmente elevata che è subordinata alle leggi della natura. Se invece vuoi avvicinare davvero la verità assoluta e procurare un vero beneficio agli uomini di tutto il mondo, il che include le tue idee di unità, di pace e di non violenza, allora devi immediatamente abbandonare le contese politiche e risorgere per predicare la filosofia e la religione della Bhagavad Gita, senza aggiunta di un'inutile e dogmatica interpretazione. Ho trattato occasionalmente questo argomento nel mio Back to God, di cui allego qui un foglio per tuo riferimento. Ti chiedo solo di ritirarti dalla politica almeno per un mese soltanto, in modo da poter discutere tra noi della Bhagavad Gita. Sono sicuro che riceverai nuova luce dal risultato di queste discussioni. Non solo a tuo beneficio, ma a beneficio del mondo intero, perché conosco la tua onestà e la tua sincerità e moralità. Aspetto con interesse una tua pronta risposta. Sinceramente tuo, Abai Charan De. La risposta non giunse. Un mese più tardi Gandhi annunciò che avrebbe digiunato fino alla morte se l'India non avesse pagato la somma di 500 milioni di rupie al Pakistan, condizione pregiudiziale del concordato di spartizione. Dapprima gli Hindu rifugiati dal Pakistan manifestarono fuori sotto la camera di Gandhi, che non era illuminata, al grido di «Morte a Gandhi!». Ma poiché digiunava, avvicinandosi sempre più alla morte, Gandhi ridestò il sincero interesse della nazione e i leader del governo rimborsarono il denaro al Pakistan. Allora grandi folle si avvicinarono a lui cantando «Viva Gandhi!» e nel frattempo la violenza tra Hindu e musulmani continuava. Il 30 gennaio, il giorno dopo che egli aveva redatto la nuova costituzione per il Congress Party, Gandhi prese il suo pasto serale, lavorò al telaio a mano e poi si incamminò per assistere alle preghiere della sera e fu colpito con 3 colpi al petto. Morì pronunciando il nome di Dio, He Rama. La lettera che Abai aveva scritto un mese prima fu vista subito come una profezia. Essa però non era stata letta dalla persona alla quale era destinata. Quando i direttori del Fondo Nazionale in memoria di Mahatma Gandhi chiesero suggerimenti sul modo di commemorare la vita e l'opera di Gandhi, Abai scrisse loro e contemporaneamente a Vallabhai Patel, il primo ministro dell'India, proponendo un uso dei fondi alla maniera di Gandhi. L'intera vita di Gandhi è stata al servizio dell'umanità e in generale con il precipuo interesse di elevare il livello di moralità. Le attività dell'ultimo periodo hanno messo in evidenza la sua equanimità verso tutti, e tutti gli uomini del mondo sapevano che egli era più un maestro spirituale che un semplice politico. La devozione a Dio era la sua ultima meta, e quando io dico che la sua sacra memoria deve essere onorata non in modo ordinario ma alla maniera di Gandhi, intendo dire che il modo adatto di rendere omaggio alla sua memoria dovrà essere fatto nel modo seguente. Abai parlò di un Mahatma Gandhi poco conosciuto, Gandhi come Vaishnava. Nonostante le pressanti attività politiche, Gandhi non aveva mai trascurato gli incontri serali quotidiani destinati alla preghiera. Anche al momento del suo assassinio aveva appena finito di assistere al Kirtan giornaliero. Mise in rilievo che la regolare partecipazione di Gandhi alla preghiera congregazionale era ciò che lo aveva reso forte nella sua opera di elevare il livello morale dell'umanità. Gandhiji, senza le sue attività spirituali, Abai scrisse, è un politico ordinario, ma in realtà è un santo tra gli statisti. Abai scrisse che Sri Chaitanya aveva inaugurato il canto congregazionale dei nomi di Krishna e Rama, e i suoi seguaci, i Sei Goswami, avevano lasciato un patrimonio culturale da discutere e comprendere. Il consiglio del Fondo per la Memoria avrebbe dovuto prendere lezioni dalla vita pratica di Mahatmaji e svilupparla su vasta scala. Perciò un modo degno di commemorare Mahatma Gandhi doveva essere l'istituzione di letture congregazionali giornaliere della Bhagavad Gita. Quando le tendenze spirituali degli individui fossero state risvegliate dalle sedute giornaliere di preghiera, allora le più elevate qualità del carattere si sarebbero sviluppate. Abai dette un secondo suggerimento. Gandhi era noto per i suoi tentativi di qualificare le classi più basse al fine di permettere loro l'ingresso nei templi. E aveva installato la divinità di Radha Krishna a Noakhali, destinandola all'adorazione degli uomini comuni. Benché ciò fosse generalmente considerato un aspetto marginale dell'opera di Gandhi, Abai la considerò l'essenza. Questo era il movimento teistico di Gandhi. Abai spiegò che, nonostante la presenza di centinaia e migliaia di templi in India, i templi non erano ben amministrati e i cittadini evoluti li trascuravano. Nella cultura vedica originale, la finalità dei templi era quella di alimentare la cultura spirituale. Se i centri dell'India fossero stati organizzati in modo da diventare centri vitali, allora le menti agitate del tempo sarebbero state addestrate ai doveri di una vita superiore. Tale educazione, unita alla pratica, sarebbero state, Abai scriveva, può aiutare l'uomo a realizzare l'esistenza di Dio, senza la cui sanzione, secondo le parole di Gandhi, nemmeno un filo d'erba si muove. Egli si riferì anche al movimento di Harijan di Gandhi, che la maggior parte della popolazione considerava lo sforzo umanitario di Gandhi per garantire uguali diritti agli intoccabili, i quali erano definiti da Gandhi Harijan, gente di Dio. Abai rilevò che anche questo era un aspetto essenziale della vita di Gandhi, ma piuttosto di limitarsi ad applicare l'etichetta di Harijan agli intoccabili, Abai notava si sarebbe dovuto studiare un programma sistematico destinato alle elevazioni delle classi inferiori. Questo programma era contenuto negli insegnamenti della Bhagavad Gita e poteva essere applicato nel migliore dei modi sotto la guida di un autentico devoto del Signore. Abai si offriva di accollarsi il compito in nome del Consiglio per la memoria di Gandhi. Se il Consiglio, nel tentativo di commemorare gli sforzi e le realizzazioni operate da Gandhi, trascurava gli aspetti spirituali essenziali della vita di Gandhi, Abai li metteva in guardia. Il ricordo di lui si sarebbe presto spento, come era stato per la maggior parte degli altri uomini politici. Forse essi consideravano Abai un altro opportunista in cerca di denaro o un religioso settario, ma Abai si considerava l'ultimo servitore di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Vedendo la presenza di confutabili qualità Vaishnava nella personalità di Mahatma Gandhi, Abai colse l'opportunità di introdurre il messaggio del suo maestro spirituale al mondo. Così facendo, pagò il suo tributo a Mahatma Gandhi, elogiandolo come un grande devoto amante del kirtan, dell'adorazione nel tempio e desideroso di elevare gli infelici a livello di uomini di Dio. Mentre era nel sud dell'India, a Madurai, per affari, Abai mostrò alcuni suoi scritti a Matuswami Ketty, un altro venditore di medicine. Il signor Chetty ne rimase colpito e sentì che di poter persuadere il suo ricco amico, il dottor Allagappa, il famoso Birla del Sud, a finanziarle la stampa. Nell'aprile del 1948 Mr. Chetty scrisse ad Abai dicendo di essersi sentito spinto ad aiutare Abai per qualcosa che è stato destinato da Dio. Chiese ad Abai di spedirgli il manoscritto completo della Gita Upanishad in modo da poterlo presentare al dottor Allagappa a Madras. Mr. Chetty aveva già scritto al dottor Allagappa circa la Gita Upanishad, lavoro eccezionale costituito da 1200 pagine, formato royal. E aveva fatto pressione su di lui affinché si interessasse di pubblicarlo per il beneficio delle persone religiose. Gli aveva anche detto che Abai stava cercando di pubblicare il libro fin dal 1946. Il dottor Allagappa ben presto aveva risposto a Mr. Chetty dichiarandosi interessato. E Mr. Chetty aveva scritto ad Abai: così io mi trovo nella condizione di poterti aiutare e soltanto Dio può aiutare me. Non sarebbe stato necessario parlare di affari con il dottor Allagappa, perché se si è deciso a farlo, lo fa per amore di carità. Anticipando il successo, Mr. Chetty invitò Abai a venire a Madras per incontrare il dottor Allagappa. Là egli organizzerà ciò che Dio ha destinato che tu faccia nell'ambito del tuo dovere religioso. A Madras, Abai avrebbe potuto rivedere e correggere le bozze del libro manoscritto e di seguire le varie fasi della stampa. Era una grossa opportunità e ad Abai non capitava di perdere un'opportunità. Se l'opportunità di pubblicare il libro si fosse verificata, sarebbe stata una grande vittoria per la sua missione, poter adempiere la richiesta di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ma a quel punto accadde il peggio. Il manoscritto era stato rubato. La coppia era una sola, quella che Abai aveva tenuto in salvo a casa. Domandò alla famiglia e ai domestici, nessuno sapeva cosa fosse accaduto. Abai era frustrato. Tanto lavoro e niente di fatto. Sentiva di aver lavorato tanti mesi per nulla. Benché non potesse dimostrarlo, sospettò che il furto fosse opera del servitore o anche di suo figlio per motivi di denaro. Ciò che era accaduto, tuttavia, rimase un mistero. Nel corso del 1949 Abai scrisse articoli in bengali e lo sottopose all'attenzione del suo confratello B.P. Keshava Maharaj, il quale li pubblicò nel suo Godio Pratika. Lo stile con cui Abai affrontava i problemi mondiali era il medesimo usato dal suo maestro spirituale. Anche al loro primo incontro nel 1922, Srila Bhaktisiddhanta aveva controbattuto le argomentazioni nazionalistiche di Abai, facendo rilevare che la crisi reale del mondo non era né sociale né politica, né era dovuta a elementi materiali, ma soltanto a scarsezza di coscienza, di conoscenza spirituale. Abai si limitò a elaborare questo tema, non sostenne mai che gli interessi ordinari del mondo erano trascurati, ma mise in rilievo il fatto che la crisi poteva essere risolta soltanto se le persone preposte alla guida fossero state coscienti di Dio. Se fosse stata anteposta la coscienza di Krishna, gli altri interessi si sarebbero mantenuti in linea. Senza coscienza di Krishna, invece, le cosiddette soluzioni si riducevano a mera follia. Abai dette inizio al suo primo articolo in bengali citando da Allahabad un articolo di fondo dell'Amrita Bazar di Calcutta. L'editore con amarezza lamentava che le agitazioni peggiori dell'India non si erano ancora concluse, nonostante l'indipendenza nazionale. La settimana nazionale era cominciata e il ricordo di Jallianwala Bagh e la schiavitù non ci turbava più, ma le nostre pene erano ben lontane dalla fine. Per decreto della provvidenza il genere umano non può mai trovare riposo. Se una forma di dolore se ne va, un'altra velocemente si presenta. L'India, politicamente libera, doveva affrontare difficoltà non meno serie di quelle che aveva dovuto subire sotto il governo straniero. Abai si servì di queste considerazioni dell'articolo di fondo per dimostrare che tutti i progetti mondiali di miglioramento sono sostanzialmente difettosi. Egli precisò che sebbene l'India fosse stata soggetta a governanti stranieri fin dal tempo di Muhammad Ghori, AD 1050, precedentemente l'India non era mai stata sottomessa. A quei tempi l'India era una nazione cosciente di Krishna. Fu quando i capi dell'India abbandonarono il loro patrimonio spirituale che l'India cadde. Così gli indiani dovrebbero capire che ora, per opera delle inflessibili leggi della natura materiale, stanno ricevendo la punizione. Il rispettabile redattore di Amrita Bazar Pratrika, Abai notava, ha scritto con amarezza: «Se un dolore se ne va, un altro dolore sopraggiunge». Ma ciò è stato affermato molto tempo prima nella Bhagavad Gita e nel medesimo argomento che Abai aveva trattato nei suoi articoli pubblicati sul Back to Godhead nel 1944. Ed era anche stato l'argomento centrale di molte sue lettere. Per aver trascurato il Signore Supremo, l'uomo riceve la punizione della natura materiale che è soggetta al controllo del Signore. Gli uomini possono scrivere articoli sui giornali, varare provvedimenti nei convegni e nelle conferenze e tentare di assoggettare la natura con la ricerca scientifica, eppure resteranno sempre incapaci di dominare le leggi della natura. Se essi cercano di sfuggire alla punizione, il Signore Supremo li immergerà più profondamente nell'illusione ed essi falliranno miseramente. Abai citò un detto bengali molto appropriato. Stavo cercando di fare una statua di Shiva, ma ho finito col fare una scimmia. Per dominare questo mondo di miseria e ricavarne un po' di felicità, ora abbiamo creato la bomba atomica, prevedendo la distruzione totale che si verificherà nel prossimo futuro a causa delle reazioni atomiche. I pensatori occidentali sono stati colti da grande turbamento. Alcuni cercano di dare conforto assicurando che la bomba atomica sarà usata soltanto per portare nel mondo la felicità. Anche questo è un altro enigma dell'energia illusoria. Come Abai spiegava, il problema era dovuto alla mancanza di devoti coscienti di Krishna nel mondo. Se i capi sono situati sotto l'influenza della natura materiale, non possono risolvere i problemi del mondo. L'illusione del materialismo prevale in modo particolare nei paesi occidentali, paesi che gli indiani non dovrebbero cercare di imitare. Abai, al contrario, profetizzava che la coscienza di Krishna avrebbe un giorno raggiunto l'Occidente. Nel mondo occidentale non si era mai parlato della relazione esistente tra l'anima individuale infinitesimale e la suprema persona, che è completamente cosciente. Non si era mai investigato sulle loro attività né sul loro stato di perfezione suprema. Ciò è dovuto al fatto che in Occidente gli uomini si crogiolano nell'ardente veleno del sensualismo. Benché siano molto progrediti materialmente, siano assolutamente sicuri che la vera formula della pace dell'India un giorno raggiungerà i loro orecchi. Gli articoli di Abai cominciarono ad apparire regolarmente nella Gaudiya Patrika. I suoi confratelli apprezzavano i suoi scritti. Tra le mani di Abai, il concetto di Asura, demone, contenuto nella Bhagavad Gita, non è più la rappresentazione di un mitologico e leggendario nemico. Attualmente gli Asura sono nati come Hitler, Churchill e anche come primo ministro dell'India. Tuttavia, come Abai pensava, la denuncia dei capi moralmente corrotti non era sua e gli stava ripetendo soltanto le parole di Krishna. Nel 1950-51 egli continuò a scrivere una serie di lettere nel tentativo di essere ascoltato dalle varie organizzazioni e dai diversi leader. Scrisse al Comitato Pacifista Mondiale, al Presidente dell'India e al Ministro dell'Educazione. Scrisse al Congresso Indiano per la Libertà Culturale, il cui responsabile, rispondendo, insinuò che forse Abai aveva indirizzato loro la lettera per errore. Scrisse a un funzionario della conferenza, che si era tenuta a Calcutta con la partecipazione di tutte le religioni del mondo, rendendo noto che a causa del modo in cui l'argomento veniva da loro affrontato, niente di pratico sarebbe potuto scaturire dal loro dibattito. La soluzione pratica risiedeva nel messaggio trascendentale di Sri Krishna, Dio, la Persona Suprema, messaggio che Krishna stesso aveva dato nella Bhagavad Gita. Il 14 settembre del 1951 ebbe una corrispondenza epistolare con Daniel Bailey dell'American Reporter, un giornale pubblicato dall'ambasciata americana a Nuova Delhi. Abai precisò che la filosofia della comprensione della verità assoluta, come i saggi dell'India avevano realizzato, era più elevata del tentativo di combinare l'Oriente e l'Occidente.